Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato in zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. L'intervento davvero di Zuniga ai danni di Neymar, che è andato giù, colpito pesantemente alla schiena, naturalmente grande in bocca al lupo al numero 10 del Brasile, ci auguriamo che non sia assolutamente niente di grave, che possa continuare il proprio campionato del mondo, però ci preoccupa davvero questa immagine di Neymar che esce in lacrime dal terreno di gioco. In bocca al lupo a Neymar. Da lua toda canção do seu amor. Vou te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e tá fora da Copa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Putz, cara. O Neymar é um cara que, pô, trabalhou tanto pra estar com a gente vê a dedicação desse moleque aí no dia a dia e a importância que ele tem pra gente. Nas noites claras de... Para mí creo que antes de entrar a esa jugada, de ir por esa, ir a marcarlo, no voy pensando en hacerle mal. Voy en defender mi camisa, como siempre lo he dicho, mi país. Lastimosamente pasó eso, esperemos con la ayuda de Dios que se recupere. Oh, stanno succedendo cose da pazzi in queste ore in Brasile. Le voci che avete sentito, quella di Fred che praticamente si mette a piangere quando negli spogliatoi di Fortaleza il giornalista gli dice: Neymar si è fratturato una vertebra, il suo mondiale è finito qui. E Fred quasi si mette a piangere. L'altra voce, la seconda, è invece quella di Zuniga, che ha provato a difendersi, ha detto: io non ho fatto niente, era un intervento di gioco, io l'ho fatto perché, insomma, stavo giocando per difendere il mio paese e la mia maglia. Però in Brasile, cose da pazzi, c'è chi in queste ore sta chiedendo l'arresto di Zuniga, e quindi noi abbiamo lanciato su Twitter, chiocciola tutti convocati, l'hashtag Freedom for Zuniga, perché io lo dico chiaramente, insomma, entrata dura, ma non è stata la peggiore tra quelle viste né nel Mondiale né ieri a Fortaleza. Però mi sembra che abbia ragione Zuniga quando, lo avete sentito, dice: guardate che io ho fatto un semplice fallo di gioco. Lo chiedo a José Altafini. Ciao José. Ciao. Ha fatto un semplice fallo di gioco? No, assassino, è un'entrata assassina, perché devo dire che nessuno entra con le ginocchia piegate sulla schiena dell'avversario. Quando i portieri escono con le gambe davanti, gli attaccanti sanno già che non devono entrare, perché sanno che i portieri escono così per proteggersi. Questa è un'entrata peggiore di quella di gomitate che si danno in faccia ogni partita che c'è. Perciò non veniva a dire che lui non l'ha fatto apposta. Lui è entrato con le ginocchia piegate sulla schiena di Neymar. Questa è un'entrata da 3 o 4, minimo 4 o 5 giornate di squalifica. Sì, Giuseppe, però non è che Fernandinho ieri ci è andato leggero. Stiamo parlando di un caso unico, stiamo parlando del caso di Neymar. Fernandinho non ha fatto male a nessuno, sarà un fallo, sarà munito, ma Zuniga è entrato per far male. Ecco. Mi interessa sapere anche cosa ne pensate da casa, è 800 24 00 24, quindi se volete telefonatevi, prenotate. Io, José, è vero, è stata un'entrata brutta, però secondo me non c'era la volontà di fare male. Si è piegato sulla schiena dell'avversario. Scusa, ma io ho giocato a calcio una vita, sono nel calcio da bambino. Io ho visto le entrate brutte e molte volte ho commentato, dice: guarda, non ha fatto apposta, è entrato sulla palla, ma questa è entrata stato con il ginocchio sulla schiena, è inutile che parla. Ieri sono stato tantissimi di quei fali sia da una parte che dall'altra, abbastanza rudi, abbastanza rigorosi, però questo qui è un'entrata di ginocchio sulla schiena, e non che vengano a raccontare a me, se chi non sa, chi non ha giocato a calcio non sa queste cose. Però si sta un po' esagerando in Brasile, davvero. C'è chi chiede l'arresto di Zuniga. L'arresto, quelle cose sono stupidaggine. Io parlo di un fatto sportivo. Ha fatto un'entrata col ginocchio nella schiena, dai, per favore. Senti, c'è chi anche ha detto, io in parte sono d'accordo, che un po' è anche colpa dell'arbitro, che ha tollerato comunque di tutto per tutta la partita. Alla fine è diventata una gara gagliarda. Sono stati falli sia dei brasiliani che dei colombiani, che sono stati falli abbastanza cattivi da non dire pari, ma non come questo, scusa. Comunque brutta botta per il Brasile. Ormai è finita, cosa vuoi che faccia? Brasile già giocava in otto tutte le partite, figura adesso manca ancora il giocatore principale. Vabbè, comunque sono cose che succedono. Comunque il Brasile ha vinto un mondiale nel 62 senza Pelé, non dico che succederà la stessa cosa, ma il problema è che non si sono sostituti, perché nel 62 è entrato Marildo, è stato anche il protagonista, e poi quel campionato lì l'aveva vinto Garrincha, non è che non c'entra niente. Sì, perché molti giornali in queste ore, molti siti spagnoli stanno rilanciando questa immagine di Amarildo in lacrime il giorno dell'infortunio di Pelé nei mondiali del 1962, e poi il Brasile quella coppa la vinse comunque, fu la coppa soprattutto di Garrincha. Ma aveva un giocatore lì che vinceva le partite da solo, che era Garrincha. Sì, questo Brasile non ce l'ha, neanche Neymar era un giocatore che le vinceva da solo, a maggior ragione adesso. Era un pericolo, perché lui veniva marcato stretto, veniva controllato, liberava un pochettino gli altri, e purtroppo il Brasile già non vinceva lo stesso forse con la squadra completa, perché la Germania è la squadra più completa che c'è in questo torneo qua. Sì, anche se quello di ieri è stato il miglior Brasile, almeno per i primi 60 minuti, il migliore visto in questo mondiale, Giuseppe. Ma guarda che io vedo una squadra all'infuori della Germania, possono vincere anche Ughi, anche la Costa Rica, però la Germania è quella più forte di tutti. Sì, la più solida. Sì. Posso lanciarti una provocazione? Che secondo me l'infortunio di Neymar alla fine è un assist per Scolari, perché secondo me questo Brasile non era un Brasile da titolo anche con Neymar. Adesso c'è l'alibi formidabile di aver dovuto giocare poi la partita decisiva, le partite decisive senza il giocatore più importante. Partita di ieri, io dicevo e pensavo che è molto più pericoloso la Colombia che la Germania per il Brasile completo. Adesso non c'è più storia, è chiaro, non c'è nessun rammarico, c'è un dispiacere, perché era una partita che si poteva giocare un po', aveva più chance il Brasile. Adesso non credo che ce l'abbia, a meno che non sia un miracolo. Ma pesa più l'assenza di Neymar o quella di Thiago Silva contro la Germania? Thiago Silva, perché ieri Neymar ha giocato bene, Neymar ieri ha sbagliato tantissimo, c'è davvero, poi che lui vuole tirare tutte le punizioni dimenticando che ci sono delle alternative in squadra come lo stesso David Luiz, lo stesso Hulk è un altro di quei giocatori che il Brasile ha sempre regalato l'avversario, compreso Fred piange che Neymar non ci sarà, ma deve piangere perché lui lo ha sempre protetto, dice vedrà che farà dei gol eccetera, però niente, come dire, l'unica cosa che ieri quando ha tirato la punizione David Luiz ha visto che ci sono delle alternative, Neymar non lascia tirare punizione a nessuno, va bene che è più un giocatore più rappresentativo del Brasile, però non è che deve fare tutto lui, non è che deve tirare il rigore, tirare corde, tirare calcio di avvio, non so. Sì, sembra che il Brasile sia solo Neymar, in tanti lo stanno scrivendo, 349-238-6666, adesso capiremo quanto pesano in questa squadra Thiago Silva e Neymar, però c'è anche chi, José, dice non diciamo stupidate, allora Matuidi andava ammazzato se Zuniga è colpevole, però stai lì José, c'è il traffico 800-24-0024, ti devo far sentire anche Maradona, José, a proposito dell'arbitro, traffico. Io non le chiedo merito a Brasil, lo che chiedo è che se rispetti, se hay un reglamento, vamos a hacerlo pesar en la cancha, Víctor Hugo. Yo no estoy pidiendo un penal que no sea a favor de Colombia para que Colombia gane, no. Simplemente que se cumpla el reglamento y así las cosas están mucho más claras. tutti convocati. 800-24-0024, carissimo José Altafini, hai sentito... No, ma hai sentito Maradona? Hai sentito Maradona? Ho sentito che è troppo basso. Comunque Maradona dice, l'arbitro ha sbagliato, Giulio Cesare andava espulso, altro che solo rigore, è il peggior arbitraggio che abbia visto in questo mondiale. Eh sì, va bene, hai sbagliato anche quando lui ha preso, fatto quello con la mano, che è quello che sta a parlare. Ma ti è piaciuto o no l'arbitraggio di ieri? È stato normale, ha annullato un gol che era fuori gioco e finita lì. Cosa vuoi fare? Ha dato il rigore a Colombo, cosa vuole di più? Senti, poi ieri gli stessi commentatori hanno detto che l'espulsione di Giulio Cesare non c'era, perché comunque non so, guarda, io Maradona diceva che è chiaro che tira per l'Argentina, io tiro per il Brasile. Oggi Gufi contro l'Argentina? No, io non gufo contro nessuno. Io ritengo che io ho sempre ammirato i grandi giocatori come lo è Messi, ho sempre detto che Messi è il più forte giocatore del mondo e mi fa piacere vederlo. Io non sono, io non ho questi, come si chiama, questi rancori oppure queste rivalità così. Io sono amante del calcio, perciò se vince l'Argentina è molto bene. Però nessuna squadra ha dimostrato di meritare il campionato del mondo. L'unica è la Germania, lo dico con sincerità. Ma Messi sta facendo un po' come Maradona in Messico nell'86? No, non sta facendo come Maradona, Maradona in Messico ha fatto molto di più. Lui è un giocatore che quando prende la palla è un pericolo, sia perché lui possa fare gol, sia che può creare come ha creato con De Maria. Ha rubato la palla, ha dribblato due e poi ha passato la palla. Comunque, è un giocatore da mirare. Io spero di vedere una bella partita anche oggi. Ciao José, grazie. Ciao, un saluto, un abbraccio. D'angolo nell'area di rigore per lui sul secondo palo, arriva e segna Thiago Silva, che porta in vantaggio il Brasile dopo 7 minuti. Thiago Silva 1-0. Lego da David Luiz in porta, i due centrali del Brasile, prima Thiago Silva poi David Luiz, 2-0 con un gol pazzesco di David Luiz che porta di 2 gol avanti il Brasile. Adesso Lego parte il 10, finta e grandissimo rigore di James Rodriguez a un portiere eccezionale come Giulio Cesar. La Colombia la riapre, la Colombia prova a crederci, a 10 dalla fine. Lego. Palla in mezzo, completa sarà il gol. La Germania in vantaggio. Ha segnato ancora Hummels. Lego. Martedì, ore 22, non prendete impegni, Germania contro Brasile, io il mio pronostico l'ho fatto 2 settimane fa, in finale sarebbe andata la Germania, a maggior ragione lo dico adesso che non c'è Neymar. Pierluigi? Come va? Ciao Pier, benissimo, non so se hai sentito un Altafini particolarmente carico contro Zuniga, fallo assassino, ha detto quello di Zuniga su Neymar, è entrato per far male, noi lo stiamo dicendo cose da pazzi in Brasile, c'è chi chiede l'arresto di Zuniga, noi abbiamo lanciato l'hashtag, io vi invito, unitevi alla nostra battaglia di civiltà. Chiocciola tutti convocati su Twitter, hashtag Freedom for Zuniga. Secondo me quello era un fallo duro, ma un fallo di gioco. Sì, pure secondo me era un fallo di frustrazione dovuto al fatto che mancava prova alla fine, la Colombia doveva provare, quindi un intervento che andava punito sicuramente, ma io non ci ho visto la premeditazione, non ci ho visto la voglia di far male all'arbitro, poi forse sono un ingenuo io, non lo so. Tra l'altro c'è, forse ne avrei parlato, adesso c'è questo giornale colombiano. Sì, meraviglioso. Ce l'ho davanti. Hoy, diario del Magdalena, arbitro español, hijo de la gran puta madre che te parió. Ci aiuti a tradurlo? Figlio di quella grande meretrice di tua mamma che ti ha concepito. Che ti ha partorito. Sì, perché i colombiani se la sono un po' presa con l'arbitro. Io non ho dato un'occhiata alle pagelle. Che voto gli danno i giornali brasiliani a questo arbitro? Velasco Carballo, spagnolo. Ognuno vede le cose sue, quindi lo stigmatizzano per l'episodio del fallo di Zuniga e invece si dimenticano che Giulio Cesar doveva essere espulso e lì poteva anche girare la partita sinceramente, perché in 10 contro 11 poi le cose potevano cambiare, anche se mancavano 10 minuti, però insomma nel calcio sappiamo che 10 minuti possono bastare e avanzare. E oggi questo è un paese veramente sospeso fra la felicità della semifinale, perché comunque c'erano grandi fatemi, perché la squadra non stava giocando bene, la Colombia ha fatto benissimo fin qui, però anche il dolore, perché insomma giocare senza Neymar e aggiungo senza Thiago Silva per una banalissima squalifica, insomma pesa tantissimo. Per me la Germania è favorita, lo dico, sì, assolutamente favorita. Io lo ripeto, il Brasile si può scordare il mondiale senza Neymar e secondo me anche la finale senza Neymar e Thiago Silva, però questo infortunio è da un certo punto di vista una benedizione per Scolari, perché gli regala un alibi formidabile. Io l'ho detto 2 settimane fa, Pier, ti ricordi, questo non è un Brasile da mondiale, il mondiale, ma non ci va neanche in finale. La mia finale era Argentina-Germania. Secondo me da ieri sera comunque Scolari potrà sempre portare avanti l'alibi della mancata presenza di Neymar nel momento decisivo del mondiale. Abbiamo tante telefonate, tanti amici, Antonello da Napoli, Marina da Padova, Luigi da Piacenza. Abbiamo anche una mezz'oretta da passare insieme prima di Argentina-Brasile e Argentina-Belgio. Scusate, non ci sarà Mertens titolare perché gioca al suo posto Miralias, ci sarà Origi e non ci sarà Lukaku, queste sono le scelte del Belgio, mentre c'è Aguero in panchina nell'Argentina e c'è mezzo ex Napoli, c'è Lavezzi, c'è questo Higuain, c'è Messi, questo è il tridente dell'Argentina. Piero, se sei d'accordo, Antonello da Napoli. Antonello, vai. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Io volevo fare una considerazione sull'intervento di Zuniga. Sì. E mi rifaccio alle parole di Altafini. Quando il portiere esce e solleva il ginocchio a protezione, esce frontalmente rispetto all'attaccante e quindi l'attaccante vede uscire il portiere ed evita il contatto. In questo caso, invece, la premeditazione dell'intervento di Zuniga è provata dalla circostanza che lui prende la rincorsa, salta sulla schiena dell'avversario perché non può raggiungere la palla, perché tra la palla e lui c'è Neymar, solleva il ginocchio e lo colpisce alla base della schiena. Questi sono interventi. Sì, secondo me, Antonello, non è così. Secondo me c'è la necessità di non far partire un contropiede, c'è la foga per cercare di tenere il pallone nella zona d'attacco della Colombia e c'è un intervento duro, ma ripeto, ne abbiamo visti anche di peggio in questo mondiale, Pier. Assolutamente, assolutamente. Insomma, io penso anche, vedi, oggi non mi ricordo chi ha scritto, ha twittato che forse se fosse stato Fred o Frazy, come dicono. Sì, non gliene fregava niente a nessuno. Sì, insomma, adesso senza estremizzare, no? Qui Zuniga, da questo punto di vista, rischia di essere sfortunato, nel senso che rischia di vivere una vita d'inferno, di non poter mettere via in Brasile, adesso sto estremizzando, insomma, per un intervento assolutamente sbagliato e pericoloso e che va stigmatizzato, ma che, ripeto, è un intervento di gioco, secondo me. Un brutto intervento di gioco deve essere punito dall'arbitro. Noi Cosciano fece malissimo a Maradona, lo ricordiamo, 25 anni fa, cioè gli infortuni fanno parte della vita, fanno parte della vita e secondo me, a parte casi rarissimi, la premeditazione non va mai. Sì, io la cattiveria nell'intervento di Zuniga, io lo ripeto, non l'ho vista, capisco Altafini, il Brasile è sotto shock, i brasiliani sono sotto shock. Però io ho visto interventi, ripeto, peggiori, ma anche ieri, anche dai due centrocampisti, anche Fernandinho, per il quale sembrano essere spariti i cartellini gialli, a proposito dell'arbitro e degli arbitri di questo mondiale. Marina da Padova, Marina. Sì, beh, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato. No, io la cattiveria invece la vedo tutta, mi rifaccio all'intervento appunto su Neymar e sulla schiena di Neymar, perché proprio io ho visto praticamente solo un pezzettino della partita e ho visto quando questo calciatore si è lanciato sulla schiena di questo ragazzo che sarà la metà di lui, è come se arrivasse un camion di 100 kg su una vetta. Sì, ma non esageriamo, cioè, anche Neymar ha un tipo di gioco che insomma lo espone a contatti duri, secondo me, ripeto, non è successo nulla, però prego Marina. Non alle spalle, secondo me se hanno punito Suarez per un morso con quella punizione che gli è stata data, devono punire anche questo giocatore, perché non sono cose che si fanno e speriamo che la cosa non vada avanti, che non abbia dei danni spinali il ragazzo, perché può veramente, veramente avere dei grossissimi problemi. Grazie, ecco, Marina. Comunque ne sapremo tutto alle 8 di stasera, giusto Pier? Se non sbaglio c'è una conferenza stampa della Federazione Brasiliana per fare il punto. Sì. Ma insomma, mi sembra si stia un po' drammatizzando, eh? Ecco, sì, io direi che... ragazzi, è un infortunio, punto, è un infortunio. Mi rendo conto che fa parte delle bruttezze del calcio, certamente. Ci toglie tantissimo, perché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che veniva visto e che era uno dei crack di questo mondiale. L'affascinazione era quella di una finale Messi-Neymar, l'investitura di Ronaldo c'era appena stata, insomma, di che parliamo? Di una stella del mondiale che si è fatto male, sarà fuori per 40 giorni. Abbiamo sentito oggi a Sport Mediaset su Italia 1 il professor Volpi chiarire definitivamente che insomma non è un infortunio che gli cambierà la carriera. Gli farà passare un'estate non piacevole, ma insomma non finirà la carriera di questo sfortunato. Sì, a settembre se lo sarà dimenticato dal punto di vista fisico. Deve fare un'impresa, ecco, cioè il Brasile deve fare un'impresa, però insomma, per quanto sia forte Neymar, il Brasile, se vuole vincere il mondiale, deve avere anche una squadra capace di sopperire, di provarci, insomma, per cui magari avrà più tifosi neutrali, perché a questo punto farà più affetto alle persone, insomma, non so se basterà. Sì, anche se credo che la Germania sia più solida, c'è poco da dire anche per quello che abbiamo visto ieri contro la Francia. 800 24 00 24, c'è Luigi da Piacenza. Luigi. Sì, sono qua. Prego. Io volevo parlare anch'io dei Neymar, no? Siamo qui. Con Zuniga. Io reputo il fallo gravoso. Lo reputo gravoso e lo reputo che dovrebbero punirla. È inutile da dire, come certi lì, ma il fallo fa parte del gioco. Sì, il fallo fa parte del gioco. Lui è entrato in un modo molto scomposto, da mezzo delinquente. Sì, ma io mi chiedo, allora Luigi, cambiamo le regole. Allora cambiamo le regole. Quello è uno scontro di gioco che è stato visto, valutato dall'arbitro che è intervenuto. Io mi chiedo, ad esempio, che cosa serva mandare un dossier con le immagini alla FIFA, Pier, quello che ha fatto in queste ore la Federazione Brasiliana. Io sono vagamente preoccupato da questa deriva. Poi i problemi nella vita sono altri, ce ne facciamo una ragione serenamente andandoci a fare una ricca cassettete, ma comunque mi sembra assurda sta cosa, mi sembra assurda, perché qua l'arbitro ha visto, ha valutato male. È come il discorso di destro, vi ricordate l'istruzione infinita? E l'arbitro, allora, o decidiamo che l'arbitro non conta di niente e che quindi vogliamo decidere tutto con la televisione, a questo punto mettiamo direttamente l'arbitro in poltrona e facciamo decidere a lui in tempo reale. No, oppure bisogna anche accettare che succeda oppure questo. Bisogna accettare che l'arbitro sbagli. Allora poi ci sono delle situazioni che sfuggono, ci sono delle situazioni clamorose che sfuggono all'attenzione dell'arbitro. In queste situazioni, giustamente, secondo me, c'è la prova televisiva. Cioè c'è un meccanismo che di fronte al morso di Suarez, che l'arbitro ovviamente non ha visto, perché se l'avesse visto lo avrebbe cacciato, punisce determinati comportamenti. Ma qui l'episodio è stato visto, è stato valutato come un contrasto di gioco, giusto o sbagliato che sia. Poi il mondiale di Zuniga è pure finito, di che stiamo parlando? Sì, tra l'altro, a parti invertite, io non so se oggi si starebbe discutendo di tutta, appunto, questa cosa. C'è chi scrive 349-238-6666, carissimo Pierre, dice quello di Zuniga è un intervento intenzionale, gratuito e criminale. Ora vengo in radio e vi do una ginocchiata nella schiena per interrompere la trasmissione, un fallo d'ascolto. Poi ne riparliamo se non cambiate parere. Aiutateci però a cambiarlo, perché io rimango dell'idea che sia un fallo, che sia un fallo di gioco brutto, duro, ma un fallo di gioco. 800 24 00 24. Beh, mica male, eh? Tutti convocati. Maradona. Going at them again. Brilliant run by Maradona. Fantastic goal. Unbelievable. World class. In the best sense of the phrase. Un resultado también positivo o negativo no es definitorio para un trabajo hecho en tres años. Obviamente que todos queremos ganar y llegar a lo máximo. Tengo una idea del equipo, pero tengo que hablar con los jugadores primero. L'Argentina non va in semifinale dal 1990, Italia 90, quando poi perse la finale contro la Germania a rigore di Breme. Ieri ha detto il CT Sabeia: dobbiamo riuscire a superare il Rubicone. Si è paragonato a Giulio Cesare, 800 24 0024. Ma io gli dico: Sabella, stai sereno, perché l'Argentina va in finale contro la Germania. Poi però non ti dico come va a finire. 800 24 0024. Per fortuna c'è anche chi ci dà ragione, Scrive: quello di Zuniga è un fallo di gioco commesso da un calciatore maldestro e menefreghista che ignora il male che possa fare ai colleghi. Bah, qui già ci siamo, però è un fallo di gioco, ripeto. Poi c'è invece chi scrive: volete dare proprio un bel esempio ai ragazzini che cominciano a giocare adesso, intervento di gioco ci sta tutto, ma chi siete? Ha ragione Altafini. Poi ancora: ma cosa dici Pardo, Zuniga ci aveva già provato con Hulk. Ecco, ad esempio Alberto, quello di Hulk sul ginocchio, gamba tesa, ecco, quello secondo me è un intervento più cattivo, più pericoloso di quella specie di ginocchiata che invece ha messo fuori causa Neymar. 800 24 0024. Luca dalla provincia di Modena. Luca? Pronto? Ciao, buon pomeriggio. Pronto? Buon pomeriggio Luca, sì, prego. Salve. Ma volevo dire, secondo me si sta esagerando un po', perché faccio un esempio banalissimo. Ieri Fernandinho ha fatto due entrate, una su Rodriguez e l'altra non mi ricordo chi, credo su Quadrado, che avevo pure anche, me lo rompessero perché io tifo Viola. Sì. Non doveva neanche finire il primo tempo. Ma tanto l'anno prossimo Quadrado gioca da qualche altra parte, Luca. Tanto l'anno prossimo com'è? Quadrado gioca da qualche altra parte, ho l'impressione. Perché i Della Valle vogliono monetizzare, fanno anche bene, però voglio dire, sbagli, se Fernandino sposta la gamba di un centimetro, l'intervento su Rodriguez rischia di staccargli qualcosa. Ora voglio dire, chi ha giocato a calcio sa che una quarta di finale di un mondiale non è la partita del torneo di Viareggio, con tutto il rispetto, volevo solo dire quello. Sì, ci sta anche qualche intervento un po' sopra le righe dal punto di vista dell'agonismo. L'abbiamo recuperato, Pierre? Ma guardate che i primi 20 minuti dei brasiliani non è che facessero dei tortellini. Sì, no, ma anche negli altri 70, anche negli altri 70. Pierre, poi vorrei sapere da te invece cosa ne pensi dell'Argentina, che poi continueremo a seguire per tutta la serata su Radio 24. In questo suo quarto di finale, che rappresenta la linea del Rubicone, così l'ha definito ieri Sabeglia. Argentina che per me resta una delle favorite di questo mondiale, anche se non ha fatto impazzire. Sì, forse soprattutto perché non ha fatto impazzire, perché ha dato la sensazione di essere una squadra ispirata da una sorta di luce magica, che è quella di Leo Messi, che fin qui ha fatto un grandissimo mondiale, e di essersi sempre cavata nelle difficoltà. Quella partita con la Svizzera da questo punto di vista sarà sicuramente la più complicata in assoluto, e quindi anch'io ho questa sensazione, anch'io ho l'idea che l'Argentina vincerà il mondiale, anche se qui il test di oggi è un test complicatissimo, e ha ragione Sabella. Quando dice che questo è il Rubicone, perché il Belgio, che il vero paradosso del Belgio è che ha fatto le prime tre partite del mondiale, le ha vinte, però sembrava che avesse fatto male, no? Cioè, c'era questa assurda, veramente assurda situazione, che le aspettative erano talmente alte, talmente forti, che sembrava veramente che avessero fatto poco. Avevano vinto tutte e tre. E però stanno crescendo piano piano. Poi gli Stati Uniti, esatto, secondo me sono cresciuti. Quindi secondo me stanno veramente molto molto bene. E la partita di oggi è di difficilissima previsione. Comunque però, noi a questo mondiale, Pier, abbiamo visto chi sarà protagonista nell'Europeo fra due anni, Germania, Francia e Belgio. Sì, Germania, sì, Francia, sì. E Belgio, le altre costruiranno per il 2018. Mario da Napoli, Mario. Pronto? Prego Mario. Niente, io volevo solo dire che secondo me alcuni radioascoltatori penso che stiano un po' esagerando nel dare giudizio. Oh, finalmente un napoletano che difende Zuniga. Allora, facciamolo l'appello, facciamolo. Sì, io penso che non bisogna esagerare, è un fallo di gioco purtroppo di questo calcio moderno, dove ci sono delle entrate, diciamo, esasperate. Io non vorrei sollevare polemiche, ma penso che sia molto più violento il fallo di Marchisio su Avalorio che quello di Zuniga su Neymar. Ci sono state delle conseguenze diverse, ma purtroppo è così. Secondo me andrebbe anche bene essere più duri con questi calciatori, va bene anche una squalifica di Zuniga di un paio di giorni. No, però giusto per stigmatizzare un po' questo modo di fare calcio, anche Fernandinho ieri è stato piuttosto vergognoso durante tutta la partita, e il problema è che gli arbitri lasciano fare troppo queste cose. Probabilmente Zuniga andava cacciato prima dal campo e anche sì, ma anche qualcun altro, qualche cartellino giallo, poi secondo me neanche quello di Marchisio invece non era neanche da cartellino rosso, no, ne abbiamo visti zero, altri Pier, ne abbiamo visti zero, altri in questo zero, mondiale Fra Zuniga, se pensiamo alla Francia, sì, ad esempio, prego. No, dico, fra Zuniga e Marchisio non c'è partita, poi Zuniga 10 volte peggio, non sono d'accordo con l'ascoltatore. Però ribadisco, per me è un intervento di gioco sbagliato, pericoloso, che andava pulito, è un intervento di gioco, non mi sembra che cioè non ho, diciamo, al quantomeno c'è l'insufficienza di prove per poter dire che fosse una cosa premeditata. Vediamo se anche Enzo Bucchioni si unisce all'esercito dei difensori di Zuniga, Freedom for Zuniga, che in Brasile lo vogliono arrestare. Ciao Enzo. Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. Ciao, sì, ragazzi. Lo arrestiamo, sì, o lo lasciamo libero? No, qualcuno vuole anche fucilare, no, lasciamolo libero. Libertà condizionata, povero Zuniga. No, è un infortunio suo professionale, nel senso che è un incidente di gioco, no? Voglio dire, capita. Io non ho visto nessuna intenzionalità, nessuna volontà di andare lì a fare male a Neymar. Capita in un momento di assoluta esasperazione agonistica, come era quel momento della partita, un intervento molto duro, sbagliato, ma nessuna premeditazione, nessuna volontà di colpire l'astro del Brasile, ci mancherebbe altro. Sì, non con la violenza da procurare una frattura o una lesione, no, adesso capiremo nelle prossime ore che cos'è. È stato sfortunato, magari la ginocchiata la colpiva 10 centimetri più da una parte e dall'altra, non succedeva assolutamente nulla. Una volta uscivano sempre i portieri in quel modo lì, ve lo ricordate? Sì, ce lo ricordava anche Altafini, che però ha dichiarato assassina l'entrata di Zuniga di ieri, ha detto da punire duramente, l'entrata sì, più dura punire di tutto il mondiale. No, secondo me non è neanche da punire, perché l'arbitro l'ha vista e quindi qui finisce il discorso, se no altrimenti scriviamo nelle regole che si fa tutto col televisore. Ha ragione Pierluigi Pardo, mettiamo l'arbitro seduto su un divano e lo facciamo arbitrare da lì. Con la birra anche, però sta diventando assurda, dai. Sì, sì, assurda. Sì. Cioè, sta diventando un'altra cosa. Io posso essere anche d'accordo, nel senso. Sì, sta diventando un'altra cosa anche il collegamento telefonico con te, Pier. Adesso proviamo a ripristinarlo. Enzo, io però ti ho convocato oggi per quello che hai scritto sulla prima del QS. Il titolo: se Lippi, Sacchi, Berzot fossero andati in Turchia, perché mentre gli altri sono in Brasile a giocarsi la semifinale, il quarto di finale, e a discutere anche dell'infortunio di Neymar, noi siamo appesi in questo fine settimana al vertice al mare tra Lotito, Gagliani e Preziosi, che ha partorito anche un paio di notizie di mercato, poi le diamo magari dopo il traffico, ma soprattutto sta decidendo le sorti del calcio italiano, sta rendendo forse più solida la candidatura del nuovo Tavecchio, 71 anni, che a metà agosto potrebbe diventare presidente della Federcalcio, e intanto Prandelli dopodomani sbarca a Istanbul. Mi pare di aver capito, insomma, che non lo saluti con particolare favore. No, guarda, perché da un personaggio come Prandelli, che ha sempre fatto la morale a tutti, oppure parlato di un calcio più etico, diverso da quello che giochiamo e che viviamo tutti i giorni, con il cadavere, passatemelo fra virgolette e con il rispetto, della nazionale ancora caldo, prende le valigie, piglia e va a guadagnare molto di più di quello che gli avrebbe dato la nazionale. Insomma, può fare quello che gli pare. Sì, anche Prandelli, se le cifre si stanno ridimensionando, sì, comunque, perché non sono i 5 milioni, sono molto meno, ma è comunque la tendenza tempistica che lascia un po' perplesso. Sì, la tempistica può fare quello che gli pare, Prandelli, ognuno in casa sua fa quello, io sono molto aperto, non è questo il problema. Il problema è che fino a un mese fa parlava della multipatria, la nazionale, un lungo progetto, io ho firmato, comunque vado al mondiale, ma e qui viene il sospetto che probabilmente sotto sotto, come avevano suggerito a me, la famosa zanzara che ti arriva, ti passa vicino all'orecchio e ti rimane, ma detto guarda che, infatti io l'ho scritto prima, un mese fa, guarda che probabilmente la firma sul contratto della nazionale è una fase di passaggio, se trova una squadra se ne va. E detto e fatto, magari quelle lì saranno, voglio dire, calunnie gratuite, però visto che poi è andata proprio così, qualche sospetto c'è, insomma. Tutti convocati. Abbiamo recuperato per Luigi Pardo. Pier, mi fai capire cosa pensi tu della questione Prandelli? Penso che è un signore che si è dimesso. È chiaro che 9 giorni dopo un contratto apre qualche malizia, e quindi chi vuole pensare che ci fosse già l'accordo lo può fare. Però in ogni caso, insomma, io credo che se le cose fossero andate diversamente, Prandelli avrebbe continuato, aveva un contratto con la nazionale di un certo tipo. Diciamo che forse il gesto nobilissimo delle dimissioni lo si può vedere con un minimo lo si può un filo downgradare, come direbbe Barisoni. Voglio fare un piccolo downgrade di un gesto che secondo me rimane comunque molto nobile. Fra l'altro secondo me è impossibile che nei 5 minuti trascorsi tra la fine della partita e l'inizio della conferenza stampa nella quale Prandelli si è dimesso abbia sentito i dirigenti del Galatasaray per discutere il contratto, quindi sicuramente no, ma evidentemente c'era probabilmente qualcosa prima, poi nel periodo del mondiale, per carità. Io questo lo penso che lui sapesse di avere questa offerta, e quindi probabilmente queste dimissioni sono state fatte a cuore più leggero rispetto, però secondo me rimangono un gesto bello, nobile, che lui ha fatto, perché si è assunto delle responsabilità, e in un paese dove troppe volte a ogni livello le responsabilità non se le assume nessuno e stanno tutti attaccati alla poltrona, per me questo rimane un atto nobile. Sì, sai su che cosa può aver invece inciso? Secondo me sulla fretta, cioè secondo me Prandelli, che è uscito chiaramente sotto schiaffo da questo mondiale, di fronte a questa offerta di Galatasaray forse l'ha voluta chiudere subito, proprio perché probabilmente non voleva trovarsi col cerino in mano. Ecco, su questo penso che ci possa essere stato un effetto, però pensare che lui in quei pochi minuti tra la fine della partita e il momento in cui le dimissioni abbia sentito Galatasaray e abbia avuto la certezza nero su bianco, no, per cui potevano anche aver fatto un pur parlé prima, potevano anche aver fatto un precontratto, tutto quello che vuoi, però poi se Galatasaray cambiava idea, cioè lui comunque un rischio se ne è preso, sì, nel dare quelle dimissioni, sì, e quindi per me è l'atto nobile. Rischio assolutamente controllato, evidentemente. Ciao Piera, domani. Ciao Piera, domani. Enzo stai lì, Maurizio da Milano. Sì, buonasera. Prego Maurizio. Io ho messo già manifesti fuori dalla macchina, così che lo voglio assolutamente libero. Secondo me ha fatto un normalissimo intervento di gioco, chi ha giocato a calcio sa benissimo che è normale. La cosa invece che mi preoccupa è che si deve arrivare appunto ad un'infortunio di questo tipo per poi far capire agli arbitri che quel tipo di intervento è pericoloso e prima o poi avrebbe portato a un'infortunio di quel tipo. Sì, ma non è che non lo sanno, Maurizio, esiste anche un po' di sano agonismo, soprattutto quando ci si gioca qualcosa di importante come l'accesso a una semifinale di un mondiale. Ripeto, ieri Brasile e Colombia se le sono date di santa ragione, l'arbitro spagnolo, il signor Velasco Carballo, secondo me ha lasciato correre sin dall'inizio, e a quel punto ci sta anche l'intervento di Zuniga. Luciano da Varese. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Salve, io invece sono del parere un po' contrario, non sì. È che ce l'ho con Zuniga, però io penso che è un giocatore, è un professionista, gioca e fa un intervento del genere con il ginocchio alzato, pesa più di 70 kg e con un avversario girato dall'altra parte, secondo me non è un intervento di gioco, io non ce l'ho con Zuniga, però... questo tipo di intervento è un intervento scomposto. Sì, ma basta che non si esageri, Luciano. Basta che non si esageri. Noi per questo lanciamo l'hashtag Freedom for Zuniga. Grazie, Enzo. Per chiudere, a me non è piaciuto di Prandelli che se ne vada senza spiegarci perché, cosa, come, perché si è sbagliato. Ha detto: io ho sbagliato, mi assumo le responsabilità. Grazie, dici che cosa? Sì, guarda, io non sono d'accordo con Pierluigi, perché secondo me il gesto non è nobile, è un gesto da codardi, perché Brandelli se n'è andato perché aveva paura di un processo mediatico, aveva paura soprattutto che tirassero fuori la storia dello stipendio, guadagna troppo, e invece secondo me, siccome aveva detto prima del mondiale che io firmo per un progetto a lunga scadenza, comunque va del mondiale, doveva rimanere, spiegarci perché è andata a finire così, nessuno l'avrebbe messo in croce, perché lui si viene a dire il calcio italiano è ridotto in questo modo, non ci sono campioni, e la situazione è ingestibile, io ho fatto quello che ho potuto, o molto onestamente nessuno l'avrebbe crocifisso, invece lui è andato via perché non si è voluto confrontare con nessuno, come dicevi tu, siamo ancora qui a pensare noi, ci chiediamo cosa è successo, se ce l'avesse detto probabilmente avremmo capito, lui sì, avremmo le idee un po' più chiare. Sì, lui poteva continuare a allenare la nazionale, è tutto un discorso che non torna, evidentemente c'è del pregresso, ma vi ricordate, scusa, e poi non voglio fare l'antiprandegliano, ma a me piacciono le cose chiare, 6 mesi fa, a gennaio, lui aveva detto io non resto in nazionale perché non fa più parte dei miei progetti, sì, voglio un club, tornare a allenare un club. Ma ti pare che in 3 o 4 mesi sia cambiato? Cos'è cambiato? È cambiato che lui non ha trovato club, fino a quando non è venuto fuori il Galatasaray, ha detto vabbè, non trovo club, rimango in nazionale. Poi c'è stato il rinnovo che doveva essere quadriennale, poi è diventato biennale e poi insomma siamo andati in Brasile, e poi carissimo Enzo, è successo quello che è successo, ma di cui abbiamo tempo ancora per parlare. Ti saluto, ciao Enzo. Ciao a tutti, buonasera, buona domenica. Ciao Enzo Bucchione, direttore del QS. Tra le cose da pazzi di oggi, ricaviamo un paio di minuti per parlarne, c'è anche la figuraccia della Ferrari a Silverstone domani. Alonso partirà 19esimo, Raikkonen 20esimo. Saluto Marco Mensurati, inviato della Repubblica. Ciao Marco. Buon pomeriggio. Figuraccia. Sì, abbastanza, una scena abbastanza mesta è stata, anche se poi pare che un paio di posizioni dovrebbero conquistare Alonso e Raikkonen nel pomeriggio per la squalifica di un paio di piloti che li hanno preceduti in griglia, ma insomma parliamo sempre di una partenza dalle retrovie con pochissime prospettive per la gara. Sì, secondo me è ancora più grave quello che ha detto Alonso, cioè lotteremo per qualche punto, ma anche se fossimo partiti settimi, ottavi, avremmo lottato comunque per qualche punto. Questo è il segno della rassegnazione oggi che c'è in Ferrari. Mi sembra che si possa discutere, della qualità del muretto, un problema di qualità non risolto evidentemente dall'addio di Domenicali. Perché poi oggi si è sbagliata la scelta per 30 secondi, può anche essere stata sfortuna con la pioggia, però insomma si sbagliano sempre. Sì, beh, adesso sempre, no, in questo caso spesso. Hanno sicuramente sbagliato, spesso sì, qualche volta hanno sbagliato, ma la verità è che l'errore di oggi è stato abbastanza grossolano, ma per impostazione più che altro, perché più che non aveva alcun senso aspettare tutto quel tempo nel primo round di qualifica, quando bastava arrivare 16esimi o 15esimi per passare, insomma si poteva provare una strategia un po' più conservativa visto appunto la confusione meteorologica che c'era in quel momento, ma insomma il problema è che la Ferrari paga il dazio di una gestione complessiva assolutamente inadeguata a livello politico, a livello manageriale da ormai 5-6 anni. Sì, tu oggi firmi su Repubblica, Mattiacci, sto pensando al nuovo progetto, in tanti sui social hanno rilanciato il tuo pezzo di oggi dopo il disastro di queste prove. Pole position Rosberg, poi Vettel, Button, Hülkenberg, Magnussen, sesto Hamilton, attenzione perché il mondiale rischiamo che si chiuda prima della sosta d'estate. Noi siamo quasi in chiusura, Marco Mensurati è assolutamente opzionato anche per domani, così insomma finiremo in maniera un po' più tranquilla anche il discorso su questo momento della Ferrari. Grazie Marco, convocatissimo anche domani. 800240024, noi domani torniamo in onda a partire dalle 17, Versalico Val Milan, Matri Val Genoa, questa è la chicca di mercato che vi avevo promesso prima. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Nicola Rossoni in redazione, Valeria Bernardi in regia. Appuntamento domani alle 17. Ciao. Quote e pronostici. Dopo le prime 2 sfide di ieri, oggi altri 2 match che consegneranno la storia di questo mondiale, le altre 2 semifinaliste. Si comincia con la partita delle 18 in programma all'Estadio Nacional di Brasilia tra Argentina e Belgio. Sono queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dell'Argentina, è quotata a 2,10, l'X è a 3,25, il 2 invece con la vittoria dei Diavoli Rossi del Belgio è quotata a 3,65. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore giocatore. Per l'Argentina spicca il nome di Messi, quotato 5, Higuain è quotato 7, Palacio, Lavezzi e Di Maria sono quotati 10. Nel Belgio invece è forte il nome di Lukaku, quotato 8, Hazard, De Bruyne e Mertens sono quotati 10. Alle 22 poi all'Arena Fortenova di Salvador c'è Olanda-Costa Rica. Osserviamo dunque anche le quote SNAI per questo match. L'1, la vittoria degli Orange, è quotata 1,50, l'X è a 4, il 2 invece, con il successo della sorpresa Costa Rica, è quotato 7. È possibile anche indovinare il gol di entrambe o meno in questa partita. La quota del gol è quotata 2,05, il no gol invece è quotato 1,70. Questa era l'ultima delle quote di oggi. Noi ci risentiamo domani.